Forse mi dovrei buttare nell'acqua, poi come gli altri stendermi al sole. E sei più tranquillo a volare, perché è vero, dall'alto cambia la prospettiva. I pomeriggi li passo cercando gli aforismi migliori di Hemingway, sui tori e sugli amori. Oh, oh, oh, non è tempo di suonare. Oh, oh, oh, preferisco aspettare. Oh, oh, oh, e di scoprire qual è la chiave che mi possa liberare, che mi faccia ricordare tutto il bello che c'è. Potrei scappare a Barcellona con quell'idea di reinventarmi ancora e ancora, ma ovviamente però puoi tornare e raccontare a tutti che vita eccezionale. I pomeriggi li passo cercando nel cielo aquiloni e assomiglia, sai, a scrivere canzoni. Oh, oh, oh, non è tempo di suonare. Oh, oh, oh, preferisco aspettare. Oh, oh, oh, e di scoprire qual è la chiave che mi possa liberare, che mi faccia ricordare tutto il bello che c'è. Seguo la scia di un aereo che passa sopra il mare. Sarà soltanto un'idea, o io davvero non voglio più tornare alla vita mia, rincorrere l'idea. Tempo di suonare, oh, oh, oh, preferisco aspettare, oh, oh, oh, e di scoprire qual è la chiave che mi possa liberare e che mi faccia ripensare a tutto il bello che c'è. Tutto il bello che c'è.